professor Ropalco si è clamorosamente contraddetto, perché ha detto che a scuola non ci si contamina, non ci si infetta, poi due secondi dopo ha detto che a scuola i bambini, gli alunni fanno da vettore di contagio e quindi a scuola ci si contagia. Avete le mogli che lavorano e voi lavorate e volete mandare i bambini a scuola, mandateli pure i vostri figli, i nostri no. Studino da casa. No, devo dire la verità, quest'ultimo ascoltatore non l'ho capito un granché. Cioè, guardi che non è una questione, non ne stiamo facendo una questione di questa, per così dire, chiamiamola così, chiamiamola largamente, questa battaglia che stiamo facendo per tenere aperte le scuole. Non è una questione di ho bisogno della scuola come babysitter, per intenderci e per spiegare. È un altro tipo di questione. Una questione che ha a che fare con lo sviluppo educativo e psicologico dei ragazzi, punto. È questo il ragionamento, non è nient'altro. Qualcuno dice è un periodo, sì, ha ragione, è un periodo, però sono stati già 3 mesi prima dell'estate e adesso si ricomincia. È un periodo, però la scuola in Germania e in Francia rimane aperta. È un periodo. Fate voi. E pensate anche, lo ribadisco ancora una volta, ma l'abbiamo già detto, a tutti i ragazzi disabili, che già faticano a trovare gli insegnanti di sostegno quando la scuola è aperta, a quelli che hanno bisogni educativi speciali, a quelli che hanno disturbi dell'apprendimento, a quelli che vivono in famiglie disagiate con difficoltà magari di connessione internet ad avere un device, a quelli che vivono in case piccole, magari con i genitori che devono lavorare da casa e che non hanno gli spazi per poter studiare, per poter seguire le lezioni. Questa è la sostanza delle cose. Poi sì, c'è il virus, certamente, però forse qualcosa su questo fronte si poteva fare un po' meglio. E qua, come al solito, parliamo di tutti, parliamo del governo, parliamo delle regioni, non parliamo di altro. Che è un po' il tema conduttore, il filo conduttore che trovate su tutti i quotidiani. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, è martedì 3 novembre, sono le 7, 21 minuti e 47 secondi. Al microfono sempre Simone Spezia. E i titoli sono dedicati da una parte a quello che è successo a Vienna, dall'altra al tema delle chiusure. Chiusure, un'Italia a tre livelli, è il titolo del Corriere della Sera. La Repubblica apre su Vienna, attacco terroristico nel cuore dell'Europa, ma parla anche di Lombardia e Piemonte come zone rosse. L'Italia divisa per aree di contagio, 3 regioni verso il lockdown totale, è il titolo del Messaggero. Messaggero che fa anche un bellissimo collage che in realtà è l'apertura vera e propria di una serie di foto di Gigi Proietti in tutte le sue interpretazioni, ce ne sono 7. L'ultimo mattatore è il grande titolo. Il coprifuoco spacca l'Italia in 3, il titolo della Stampa. Ecco come Conte chiuderà le regioni, il Quotidiano Nazionale. Le regioni ignorano persino Mattarella, il Fatto Quotidiano. Ho fatto tutto bene, ma ci tocca soffrire. È il titolo di Libero, dove l'ho fatto tutto bene, ho fatto tutto bene tra virgolette, sono le parole di Conte. Conte specialista in furbate, dice. Chiusi in casa da un incapace, è il titolo della Verità. Lockdown da pazzi è quello del Giornale. E il Sole 24 Ore, no, anzi, andiamo prima su, scusate, il Manifesto che apre sugli Stati Uniti, USA la testa, il gioco di parole, chiusure a soffietto è il titolo di Avvenire. E il Sole 24 Ore me lo tengo per ultimo perché poi partiremo esattamente da qua. Lo sblocca debiti della pubblica amministrazione ha fatto flop, titola il Sole 24 Ore. Iniziamo dunque alle 7, 23 minuti e 30 secondi a entrare un po' nelle pagine dei giornali, all'interno delle pagine dei giornali. E inizio da questo perché? Perché voglio iniziare da questo? Perché da più parti in questo periodo si invoca un lockdown e si mettono in contrasto i temi del lavoro e dell'economia e della salute dall'altra. Lo avete sentito anche nel dibattito parlamentare di ieri, perché ha avuto occasione di seguirlo, questo scontro, meglio, queste parole del Presidente del Consiglio che dice la salute prevale su tutto, e la risposta della Lega che dice no, guardate, tutti i diritti costituzionali sono pari, ma semmai la salute, ha detto Claudio Borghi, non so se con una provocazione, un vero e proprio errore sul quale ieri si è molto ironizzato, ha detto la salute però è l'articolo 32 della Costituzione e quindi è più importante il lavoro. Il grande tema mi pare che sia questo: se veramente devi dare il via libera, devi far partire un lockdown, però devi assicurarti che le cose funzionino correttamente dal punto di vista dei ristori, dal punto di vista di come i soldi entrano nelle tasche di chi è in una situazione di difficoltà. E l'apertura del Sole 24 Ore ci dimostra ancora una volta che i meccanismi della pubblica amministrazione sono terrificanti sotto questo aspetto. Perché? Perché nelle more dei vari provvedimenti varati per l'emergenza è stato varato anche un provvedimento per, o meglio, sono stati stanziati dei soldi perché si sbloccassero i debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle aziende, delle persone che lavorano per la pubblica amministrazione stessa. Come sapete, abbiamo un ritardo cronico, ci sono anche delle sentenze, c'è anche una sentenza della Corte europea che ci ha condannati per questo. Appunto, la pubblica amministrazione che paga in ritardo. Nell'ultimo periodo le cose sono migliorate, e però cosa succede? Che il governo ha sbloccato 12 miliardi per le amministrazioni locali e per le ASL. Ebbene, il primo tentativo di sbloccare i debiti commerciali di regioni, aziende sanitarie ed enti locali, racconta Gianni Trovati, era sfociato in una grossa delusione rispetto alle ambizioni sul decreto di maggio. Sui 12 miliardi messi a disposizione, le amministrazioni ne avevano chiesti meno di 2. Di qui il rilancio tentato con il decreto di agosto, ma il bis si è rivelato molto peggio dell'originale, con poche decine di amministrazioni che in tutto hanno chiesto 110 milioni di euro e dunque sono ancora in ritardo nel pagare le aziende. L'occasione, insomma, è stata persa. Il nuovo sblocca debiti puntava a cancellare fino al 70% delle vecchie fatture accumulate dalle amministrazioni territoriali, invece si limita a sforbiciarne circa il 10%, e l'occasione era unica, scrive Trovati, perché lo stato d'eccezione prodotto da una crisi che ha fatto saltare tutte le briglie ordinarie dei conti pubblici aveva permesso al decreto di maggio di crescere fino a dimensioni inedite, lo sapete, 155 miliardi. E questo fondo potenzialmente enorme, che era 8 miliardi per regioni ed enti locali, 4 per le ASL, sostanzialmente è andato inutilizzato o utilizzato solamente in piccolissima parte. Grande latitanza soprattutto delle amministrazioni del centro-sud, scrive Gianni Trovati, con l'eccezione del comune di Napoli che ha chiesto quasi mezzo miliardo, e delle aziende sanitarie, cioè i settori della pubblica amministrazione locale nella quale i pagamenti in tempo continuano ad essere un problema. E quindi, cari amici, se avete debiti nei confronti della pubblica amministrazione, siete imprenditori, avete debiti nei confronti della pubblica amministrazione, in particolare degli enti locali, sappiate che questi enti locali hanno scarsa intenzione di pagarvi. E poi ci sono i lavoratori. Quante volte siamo tornati su questo tema? La cassa integrazione. Qua andiamo sulla Repubblica, pagina 29, che ci racconta il caso, sarebbe da dire i casi, perché è una questione della quale stiamo continuando ad occuparci e dalla quale non usciamo. All'INPS sono ferme 270.000 domande in attesa della cassa integrazione. Ricorderete che da questi microfoni ne abbiamo parlato anche con il presidente del Consiglio di sorveglianza appunto dell'INPS, però ancora fermi siamo. Lo scrive Valentina Conte: il governo ha deciso di prorogare ancora la cassa integrazione Covid per altre 6 settimane entro dicembre e 12 settimane da usare entro maggio 2021. La grave crisi sanitaria non consente molte alternative, ma quanti sono i lavoratori che ancora aspettano il pagamento della cassa arretrata? Secondo l'INPS 17.000. In realtà, e qui parliamo di domande già autorizzate che hanno concluso l'iter, siamo tra un totale di 267.000 beneficiari ufficiali e 402.000 ufficiosi da altri report interni dello stesso INPS. E perché? Perché qua l'INPS fa un gioco, se mi consentite, da quel che capiamo dal pezzo di Valentina Conte, un po' sporco, nel senso che dice che sono solo 17.000 i lavoratori che non hanno ricevuto nulla. Però non ti dice in realtà quanti hanno ricevuto, per esempio, solo un mese di cassa integrazione e non tutto quello che gli spettava. E quindi di qui la confusione tra le domande effettivamente arrivate e i lavoratori che effettivamente hanno ricevuto qualcosa. Oh, del resto, se ci si mettono anche i truffatori in alcune amministrazioni, come quella del comune calabrese, spero l'accento di metterlo giusto, Varapodio, poco più di 2.000 abitanti, e beh, abbiamo finito. False certificazioni, ci racconta Libero a pagina 11, vidimate da funzionari comunali evidentemente distratti, mettiamolo tra virgolette, per attestare difficoltà economiche che potessero così dar diritto ai buoni spesa, così da poterci acquistare alimenti, farmaci e beni di prima necessità previsti dal governo per le persone in difficoltà nell'ambito dell'emergenza Covid. Sono 100 su circa 2.000 abitanti le persone che di fatto hanno truffato questo meccanismo, riuscendo ad ottenere i buoni spesa per gli alimenti. Per ottenere l'aiuto municipale distribuito dal municipio bisognava dimostrare un'entrata mensile massima di 700 euro. E però è stato accertato che questi 100 disponevano di somme ben superiori. C'era poi chi, oltre ad aver avuto accesso al fondo di solidarietà alimentare, percepiva anche altri sussidi, come indennità di disoccupazione, pensione o anche reddito di solidarietà. I più sfrontati, oltre a percepire l'indennità di disoccupazione e i buoni spesa, continuavano comunque a lavorare. E non è il primo caso che viene registrato. Del resto, poi, sapete, se i soldi li spendiamo... Lo so che è una vicenda che vi appassiona, come nel caso di Alitalia, così è, ci riporta qua Gianni Tredragoni a pagina 20 del Sole 24 Ore, il quale ci fa sapere che la Corte dei Conti ha registrato il decreto costitutivo della nuova Alitalia, ma la nuova compagnia, che si chiamerà Italia Trasporto Aereo, non è ancora operativa e l'attività di volo non potrà decollare prima di marzo-aprile 2021, considerando tutti i passaggi da completare. Il decreto del MEF dice solo che la società ha sede nel comune di Roma, ma al momento non ha ancora una propria sede necessaria per iniziare i lavori sul piano. A giorni il Ministero dell'Economia verserà i 20 milioni di capitale iniziale, mentre per iniettare i 3 miliardi previsti dalle norme di legge il ministro Roberto Gualtieri avrà più tempo, la prima tranche solo nel 2021. Una pausa, ci ritroviamo tra un attimo. Mattino. E là, ma che pausa breve, abbiamo qualche problema tecnico con i computer che adesso cerchiamo di risolvere. Ci siamo fermati solo per un attimo. Allora, a cosa andare? Vi porterei sulla vicenda di Vienna. Qua trovate molte belle pagine di giornale, molte, dove... Allora, in alcuni punti, secondo me, forse si esagera un po', si traggono delle conclusioni un po' troppo presto. Del resto, gli attacchi terroristici sono stati di ieri. E però, per darvi un po' un segnale di quello che forse era il clima ieri a Vienna, abbiamo Gianluca Di Feo sul quotidiano La Repubblica che ci parla della dinamica della strage. Come al Bataclan, un attacco multiplo nel cuore dell'Europa. A rappresentare, mi pare, questo pezzo di Gianluca Di Feo, al di là delle dinamiche dell'attacco che, dice, ricordano i momenti più cupi della storia recente, come nella notte del Bataclan, il comando ha agito in maniera sincronizzata, facendo fuoco tra la gente ai tavolini di un locale, prendendo ostaggi in un ristorante, anche se questa poi è stata smentita, e seminando ordigni, o meglio, quella era la notte del Bataclan, sì, gli ostaggi erano stati presi, erano stati seminati, determinati ordigni. Prima ancora era accaduto in India nel 2008, con diversi gruppi d'assalto impegnati a devastare gli hotel di Mumbai, e ieri a Vienna, come nella strage di Charlie Hebdo, i terroristi non si sono intimoriti all'arrivo della polizia, l'hanno affrontata ad armi spianate, proseguendo il loro piano feroce. A segnalare che qualcosa nell'attentato di Vienna di ieri, in attacco di Vienna di ieri, richiama ciò che è avvenuto nei mesi scorsi e negli anni scorsi in Europa. Guido Limpio, che è l'esperto che scrive di terrorismo per il Corriere della Sera, va proprio su questo. È il fronte delle città, con le strade tramutate in campo di battaglia da estremisti e da persone che li imitano ma conducono guerre personali. Il fine è sempre lo stesso: fare molte vittime, portare il terrore, dimostrare che nessuno è al sicuro. Alcune azioni richiedono una preparazione, specie se coinvolgono luoghi multipli come a Vienna. I criminali devono procurarsi l'arsenale, condurre una ricognizione, studiare le contromisure. Il paese ha una posizione geografica che la può rendere vulnerabile. È vicino all'est europeo, uno dei serbatoi dai quali entrano esplosivi, Kalashnikov e armi ricondizionate. Quelle per il Bataclan le comprarono in Slovacchia. Esistono molti sentieri battuti dai trafficanti e lungo le medesime rotte possono passare elementi che vogliono infiltrarsi. Questo è il racconto di Guido Limpio, ampi pezzi ovviamente su questa strage di Vienna che trovate sui giornali. Qua Francesca Sforza, come sapete, a volte nostro ospite qua a 24 mattino sulla Stampa a pagina 3, ci parla di un'Europa ferita che vive nell'incubo dello scontro di civiltà. Speravo di non dover fare questo discorso, diceva ieri pomeriggio il presidente austriaco Alexander Van der Bellen in un accorato appello alla nazione. Chiedeva agli austriaci di essere all'altezza della situazione. Mostriamo che appartenere a una comunità non è un'espressione priva di senso, e di prepararsi a sopportare l'arrivo di un nuovo e duro confinamento. Coprifuoco notturno, alberghi e ristoranti chiusi, come i cinema, i musei, le associazioni sportive. Due ore dopo, l'inferno. Un attacco terroristico diretto al cuore dell'Europa ed entrato dall'Austria dopo aver colpito la Francia, con una conseguenzialità che è tanto più raggelante nella misura in cui non ne venisse confermata l'effettiva contiguità. Sì, perché sarebbe il segno di qualcosa di più profondo che attacca le società democratiche nelle loro libertà, ovvero in ciò che vi è di più fragile da difendere con la forza, dove questa libertà ovviamente è anche naturalmente la vita notturna. Vien qua da dire, me la metto là, no, che il virus ha potuto più di quanto non abbia potuto il terrorismo islamico, perché molto abbiamo detto di come sarebbe cambiato il nostro stile di vita dopo quegli attentati, eppure gli attentati che ci sono stati in passato, dopo attimi di iniziale paura, a quegli attentati abbiamo reagito bene, abbiamo detto il nostro stile di vita non si cambia. Ebbene, in questo momento il virus sta facendo esattamente quell'effetto, speriamo che sia il più temporaneo possibile. Fabio Amendolara, a pagina 10 della Verità, ci racconta di quello che definisce un incredibile intreccio di amore e morte che sta sullo sfondo dell'attentato islamico di Nizza, che si arricchisce di nuovi retroscena. La Verità ha svelato come il tagliagole tunisino Brahim Ouyaswi, prima di partire dalla Francia, usasse un account Facebook più che da estremista musulmano, da giovane trasgressivo. Sul profilo pubblicava foto di spinelli, immagini di uomini discinti. Uno dei migliori suoi amici, Ahmed Ben Amor, arrestato con lui nei giorni scorsi, almeno sino al 2016, era un paladino dei diritti omosessuali in un paese dove essere gay è ancora un reato punito dalla legge. E qui arriva una nuova sorpresa. Ben Amor, che per le minacce ricevute dagli intolleranti ha tentato due volte di togliersi la vita, per un periodo è stato una vera e propria icona del mondo LGBT, tanto da aver messo in moto una catena di solidarietà in sua difesa nel 2016, catena che aveva coinvolto anche la nostra arcigay. Il segretario generale Gabriele Piazzoni dichiarò: Ahmed Ben Amor è stato cacciato dalla famiglia, costretto a lasciare la scuola, a trovare riparo in ricoveri di fortuna senza mezzi, costantemente minacciato. Questa la storia, secondo quello che è il racconto di Fabio Amendolara sulla Verità, appunto, di Ben Amor. E poi c'è il fronte italiano. Il fronte italiano è quello di una preoccupazione che sale. Una preoccupazione che sale soprattutto per i luoghi di culto. Dopo lo sgozzamento nella cattedrale di Nizza, ci racconta Fausto Biloslavo a pagina 17 del giornale, sono arrivate minacce alle diocesi di Torino di tenore francese, rivela una fonte qualificata al giornale, e la questura del capoluogo piemontese ha chiesto l'innalzamento della protezione per gli obiettivi religiosi, a cominciare dalle chiese. Lo scorso fine settimana sarebbe stata inviata una lettera o indirizzate minacce estremiste al vescovado del capoluogo piemontese. La matrice dovrebbe essere jihadista, ma non si possono escludere provocazioni di altra tendenza. Le maglie del riserbo sono strette e l'annuncio di azioni eclatanti ha fatto innalzare il livello di allerta, mobilitando le forze dell'ordine e i militari di Strade Sicure. Prima di Nizza, la Digos non ha sottovalutato anche un altro aspetto: la saldatura fra ultra, frange anarchiche e mini bande di giovani magrebini di seconda generazione nelle violente proteste a Torino contro le restrizioni per contenere il virus. Le minacce sarebbero indirizzate all'arcivescovo Cesare Nosiglia, che ha sempre mantenuto un buon rapporto di dialogo con la comunità islamica locale. Lo scorso agosto Papa Francesco lo aveva confermato per altri due anni a capo della diocesi. E quindi si sta scavando su questo fronte per cercare di capire se vi siano collegamenti a questa che forse non possiamo ancora definire una nuova ondata, visto che parliamo solamente di Nizza e di Vienna, e però a questi due nuovi attentati terroristici che sono seguiti, come ben sapete, poi ne parleremo più avanti alle 8:35, a questo esplodere delle tensioni tra Turchia e Francia, che come ben sapete hanno radici molto, molto più forti, perché là c'è una battaglia che si sta combattendo intorno al destino della Libia, c'è una battaglia che si sta combattendo intorno al destino delle acque territoriali di Cipro, c'è una questione interna che riguarda il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e una sua debolezza interna in Turchia per la condizione economica del paese, con una disoccupazione al 25% e la lira turca in netto crollo, e quindi una volontà di prendere in mano, di lanciare questa sorta di nuovo ottomanesimo e prendere in mano il mondo musulmano, farsene sorta di portavoce per portare all'esterno, per così dire, per coprire con ciò che avviene all'esterno quel che avviene all'interno, e però i risultati di questa tensione nella quale Erdogan è arrivato a dire che in Europa i musulmani vengono trattati come i nazisti trattavano gli ebrei, lo vediamo nella sostanza di oggi e appunto nelle parole in quello che è successo ieri a Vienna, così come in quello che è successo l'altro giorno a Nizza. E a proposito di tensioni che ci sono tra il mondo musulmano, il grande tema dell'integrazione, c'è una piccola notizia che arriva dal Quotidiano Nazionale a pagina 21, che ci arriva da Firenze e che racconta un po' questa tensione che respirano ovviamente le nuove generazioni, i cosiddetti immigrati di seconda generazione, rispetto a quanto sono tradizionali le famiglie, in alcuni casi, non sempre naturalmente. Vuoi vivere all'occidentale? Botte e offese, il padre arrestato, ci racconta appunto il Quotidiano Nazionale da Firenze. Quando era fortunata, poche volte in verità veniva solo insultata dal padre marocchino di 51 anni. Molto più spesso è stata picchiata con calci e pugni per anni dal padre perché colpevole di voler vivere all'occidentale, di parlare italiano, di volersi truccare e uscire con gli amici. La vittima delle violenze, ora 17enne, sabato scorso ha trovato il coraggio di raccontare tutto alla polizia, intervenuta a casa sua perché il genitore aveva aggredito la madre, colpendola per l'ennesima volta con calci, pugni e minacciandola con un coltello da cucina. Per l'uomo è scattato l'arresto per maltrattamenti, oggi l'udienza di convalida. Il giorno del suo 13° compleanno il padre l'avrebbe anche picchiata con un manico di scopa fino a spezzarglielo sulla schiena perché era andata da una vicina di casa a festeggiare invece di fare le faccende che il padre le aveva assegnato. E quindi un punto di attenzione, se volete, anche su questo. Le questioni Covid. Allora, ne abbiamo dibattuto all'infinito e però sapete che questo tema resta sotto traccia. Da una parte gli anziani, dall'altra parte i giovani. da una parte l'idea di un confinamento o di una gestione diversa delle persone più a rischio e dall'altra parte la questione delle scuole chiuse, ne abbiamo parlato anche poco fa. Ebbene, oggi ci torna Claudio Cerasa, il direttore del Foglio, e lo fa con un pezzo al titolo provocatorio, che in realtà poi se guardate all'interno così provocatorio non è: nonni a casa, bambini a scuola, perché è stato il Foglio a pubblicare lo studio. Poi avete sentito, l'avete sentito il professor Ichino, se non erro era ieri, da Alessandro Milan, il professor Andrea Ichino, è stato il Foglio a pubblicare questo pezzo, Separiamo i giovani dagli anziani per evitare un nuovo lockdown, scritto da Andrea Ichino, Carlo Favero e Aldo Rustichini, che parlava esattamente di questo. E allora tira giù un po' di numeri Cerasa, sintesi totale. Dall'inizio della pandemia, l'86% delle morti relative al Covid-19 ha riguardato una fascia della popolazione con un'età superiore ai 69 anni. È sufficiente questo dato per dire che il Covid-19 non è pericoloso per i più giovani? Ovviamente no, e anche qui ci tornano utili i dati cumulativi raccolti all'Istituto Superiore di Sanità. Tra i positivi nella fascia 80-89 anni, il 25% si trova almeno in condizioni severe. Tra i positivi nella fascia 70-79 anni, il 20% si trova in condizioni severe. Tra i 60 e i 59 anni il 12% si trova in condizioni severe, tra i positivi nella fascia 50-99 il 6% si trova almeno in condizioni severe. Questo è il quadro. E dunque cosa dice Cerasa? Non dice chiudete a casa i nonni, però dice altro. Per esempio, consentire ai docenti anziani di insegnare in modo telematico da casa. Per esempio, stabilire ingressi nei supermercati a seconda delle fasce d'età. Per esempio, separare in modo rigido i mezzi di trasporto dedicati agli anziani da quelli dedicati ai più giovani. Per esempio, mettere a disposizione delle persone più anziane un personale dedicato all'interno degli studi dei medici. Per esempio, rendere obbligatorio il lavoro da casa per tutti coloro che appartengono a una fascia a rischio. Per esempio, creare aree separate anche all'interno dei luoghi di ristorazione. Sperimentare oggi nuovamente una qualche forma di lockdown, come sta capitando in Francia, in Irlanda, in Austria e tra qualche giorno in Germania, sarà forse inevitabile se le regioni più a rischio non avranno il coraggio di prendere in modo autonomo e con tempismo decisioni che meriterebbero di essere assunte senza dover aspettare la tagliola dello Stato centrale. Ma forse in vista delle prossime ondate, dice Cerasa in sostanza, a questo bisognerebbe pensare. Il traffico. Solo un paio di segnalazioni ancora, molto rapidamente. Innanzitutto che sul tema delle regioni, del quale parlava già Claudio Cerasa, trovate molto su vari giornali, a partire da Repubblica, a pagina 9, con Concetto Vecchio, Giovanna Vitale, a raccontare questo Mattarella che scende in campo quasi a commissariare o a frenare la lite tra governo e regioni. Altri giornali la interpretano come una sorta di commissariamento del governo. Altri ancora, come il Fatto Quotidiano, dicono: guardate che sono le regioni che non vogliono decidere. Questo trovate sui giornali. Se volete un quadro interessante invece sulle elezioni americane, vi dico che potete andare sul Sole 24 Ore, dove trovate un punto interessante fatto da Riccardo Barlam sul futuro degli Stati Uniti, giocato in Florida e Pennsylvania, e un pezzo di Marco Valsania sugli elettori incerti che decidono per tutti, e un bel analisi di Ugo Trambari su un paese profondamente diviso nelle mani di un sistema imperfetto, e si sofferma sul sistema elettorale americano. Prima di chiudere questa parte dedicata alla rassegna stampa, abbiamo un ospite che è Alessandro Orsini, che lavora al Dipartimento di Scienze Politiche della Luis Guido Carli, è direttore dell'Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale, quindi sul terrorismo, appunto dell'Università Luis Guido Carli di Roma. Buongiorno Orsini, grazie per aver accettato il nostro invito. Ci siamo, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie a voi dell'invito. Allora, per parlare con lei naturalmente di quello che è successo a Vienna, che segue quello che è successo a Nizza, è un rialzare la testa del terrorismo di stampo islamico direttamente collegato alle parole di Erdogan dell'altro giorno, secondo lei, o è semplicemente qualcosa che non è mai stato sopito? Ma no, io direi che non esiste alcuna relazione tra quello che Erdogan ha detto e questi attentati terroristici. Consideri che quello che Erdogan dice in Italia in genere viene gravemente distorto e frainteso. Erdogan è stato colui che più di ogni altro ha combattuto contro l'ISIS. L'esercito turco ha ingaggiato uno scontro a fuoco sul terreno, sparandosi in faccia con i militanti dell'ISIS, tant'è vero che l'ISIS ha realizzato tanti attentati terroristici contro i turchi, e in particolare l'ISIS nutre un odio profondissimo nei confronti di Erdogan, perché appunto la Turchia, a differenza degli stati europei che non hanno mai sparato un proiettile in faccia ai militanti dell'ISIS sul campo, la Turchia questo l'ha fatto ampiamente. Quindi io direi che noi dobbiamo spostare l'analisi sulla strage di Vienna, concentrarci sì. su questo, e direi come la legge lei? Purtroppo in questo momento a me manca l'elemento fondamentale, perché nella mia griglia interpretativa ciò che è fondamentale nel breve periodo per comprendere se ci saranno attentati nelle prossime ore sono due variabili fondamentali, che sono il numero di morti in relazione al numero dei terroristi. Detto più semplicemente significa questo, che se ci sono stati 6 terroristi a Vienna armati di Kalashnikov che hanno colpito la città in 6 punti diversi e alla fine i morti sono 2, vuol dire che siamo di fronte a un attentato terroristico gravemente fallito, vuol dire che siamo davanti a un gruppo di incapaci assoluti, perché non hai nemmeno un rapporto di 1-1, cioè 6 terroristi non riescono a uccidere nemmeno 6 persone. Purtroppo questo dato in questo momento io non lo ho e quindi non sono in grado di svolgere un'analisi compiuta da questo punto di vista. Quello che è emerso finora sembra andare in questa direzione. Non sappiamo esattamente quanti siano gli attentatori, non conosciamo esattamente il numero dei morti, ma da quel poco che è emerso finora, e chiaramente potrei essere smentito e potrei rivedere quello sì. che le sto dicendo, mi sembra che si vada in questa direzione. Chiaramente è una buona notizia per quanti fatti siano tragici, chiaramente io condanno questo orrore con tutte le mie forze. Che cosa intendo dire quando dico che è una buona notizia? Che noi nel 2019 non abbiamo avuto nemmeno un attentato dell'ISIS e di Al-Qaeda nell'Unione Europea. E abbiamo avuto a partire dal 2018 fino ad oggi un crollo degli attentati dell'ISIS, che sta a significare che cosa questo crollo? Che l'ISIS non riesce a impiantare un'organizzazione nelle città occidentali, e questa è la variabile fondamentale che deve farci tremare oppure no, perché è chiaro che se un'organizzazione terroristica, che si tratta dell'ISIS, che si tratti di Al-Qaeda, riesce a impiantare un'organizzazione, cosa vuol dire un'organizzazione? Sì. Vuol dire appartamenti affittati sotto falso nome, documenti falsi, armi, munizioni, luoghi dove è possibile addestrarsi, stipendi. Questo sarebbe un fatto gravissimo che davvero rischierebbe di travolgere la pace e la serenità delle società libere. Per fortuna questo non è accaduto, quindi noi di fronte a una strage possiamo sviluppare tipi diversi di analisi. Quello che è fondamentale in queste ore, la cosa più importante di tutte, e poi dopo chiaramente vengono... Mi scusi Orsini, in parte anche Nizza, anche l'attacco di Nizza in cattedrale sembra raccontare questa storia, nel senso che presumibilmente una persona che si è radicalizzata in Tunisia, poi è arrivata a Lampedusa e senza una forma di organizzazione stabile, da quel che vediamo almeno al momento in Europa, no? Sì, guardi, io ho analizzato e classificato tutte le stragi dell'ISIS e di Al-Qaeda in Europa occidentale e le ho suddivise in 3 tipi diversi. Al primo tipo ci sono le stragi direttamente pianificate e organizzate dai capi dell'ISIS, come la strage del 13 novembre del 2015, la strage di Parigi del Bataclan, che sono in genere le stragi più letali, proprio perché alle spalle c'è un'organizzazione. Al secondo tipo ci sono le stragi che io chiamo delle cellule autonome, e sono gruppi di amici o di parenti che realizzano queste stragi senza essere in contatto diretto con i capi dell'ISIS e senza beneficiare del loro appoggio, quindi tendono a fare molte meno vittime rispetto alle stragi di primo tipo, e questo è un esempio della strage di Barcellona del 17 agosto del 2017, dove 9 jihadisti uccisero relativamente poche persone perché non erano addestrati, non erano armati. E poi ci sono le stragi di terzo tipo, che sono le stragi dei lupi solitari, che io ho suddiviso in 2 ulteriori categorie, vale a dire i lupi solitari addestrati e i lupi solitari non addestrati. A Nizza noi abbiamo avuto un lupo solitario non addestrato, che è sempre una brutta notizia, un attentato, che io condanno sempre con tutte le mie forze, ma che dentro una logica militare, che è la logica dentro la quale io mi muovo, che a mio giudizio è la logica più importante di tutte, perché è quella che ci fa capire se noi italiani, francesi moriremo di più o moriremo di meno, a Nizza abbiamo avuto un attentato di un lupo solitario non addestrato, quindi gli attentati... Chiariamo, perché qua c'è già qualche ascoltatore che polemizza, dice, il professore dice che non è successo niente a Vienna, non ha detto questo il professor Orsini, che non è successo niente, ha detto semplicemente che... per le modalità, per come lo sappiamo adesso, perché non abbiamo ancora la certezza completa di quante persone fosse composto il comando, eccetera, eccetera, non ha l'aspetto preoccupante di una cosa organizzata, aperte virgolette, in grande stile, chiuse virgolette, come fu al Bataclan, molto semplicemente. Esatto, cioè quello che è successo a Vienna è un fatto gravissimo, che io condanno con tutte le mie forze, chiaramente deve preoccuparci, e questo è chiaro. Però lei consideri che il 13 novembre del 2015 a Parigi entrò in azione un comando di 9 jihadisti diviso in 3 gruppi di 3 che colpì Parigi in 6 punti diversi, uccise 132 persone utilizzando mitragliatori, pistole e cinture esplosive. È chiaro che per quanto riguarda la sicurezza di noi italiani, la sicurezza dei francesi, la sicurezza di tutti noi europei, questo tipo di analisi che io ho sviluppato, che chiamo analisi comparata delle stragi jihadiste, è fondamentale perché ci consente di rispondere alla domanda: moriremo sempre di più o sempre di meno? La mia tesi è che a un certo punto non moriremo più, perché l'ISIS è un tipo di organizzazione sostanzialmente fallimentare, perché se non è riuscita a impiantare un'organizzazione nel periodo in cui era all'apice, cioè nel periodo 2015-2016, quando aveva pozzi di petrolio, milioni di euro e un esercito, io non riesco a vedere come possa impensierirci di più oggi nel 2020, e l'ISIS non è più nulla. Dobbiamo veramente chiudere, grazie Alessandro Orsini per essere stato con noi. GR24, ci ritroviamo tra poco con Paolo Miele, poi di questo torneremo a parlare, avremo ospite la vice ministra agli esteri Sereni, a tra poco.